Bentrovati a Mix 24. Oggi raccontiamo una storia di cronaca sullo sfondo degli anni 70. Dal 1970 in poi, Roma è diventata una città pienamente moderna, sia nel bene che nel male. Il boom economico è ormai esploso e inizia ad accusare segni di stanchezza. D'altra parte c'era stato il movimento giovanile del 68, l'autunno caldo del 69, la rivolta del boia Chimolla a Reggio e Catanzaro. In tutto questo susseguirsi di eventi, i casi di cronaca passano in secondo piano. Ma almeno uno, in quell'estate romana del 1973, va ricordato, perché presenta un salto di qualità che incide in qualche modo nel sentimento e quindi anche nei comportamenti dei cittadini italiani. La notte del 10 luglio scompare a Roma Polghetti III, nipote del ricchissimo e avarissimo magnate inglese del petrolio. Uno degli uomini più ricchi del mondo. Per 3 mesi i rapitori continuano a mandare messaggi chiedendo riscatti sempre più alti. Ad un certo punto spediscono ad un giornale un messaggio nel quale minacciano di mandare un pezzo di carne viva della loro vittima. E infatti, pochi giorni dopo, un quotidiano, Il Messaggero, riceve una lettera con all'interno l'orecchio di Polghetti III, che all'epoca ha soli 16 anni. Roma, 10 luglio 1973. Un ragazzo non è rientrato a casa. È un ragazzo come tanti in quell'estate romana, capelli lunghi, un po' hippie, che se la fa con i suoi amici tra Campo di Fiori, Santa Maria in Trastevere e Piazza Navona. Sembra volatilizzato, scomparso. Non è una grande notizia, se non per i familiari, e neppure i giornali ne parlano. E poi con quello che sta succedendo in Italia. Un decennio, quello degli anni 70, che passerà la storia come il decennio nero, cominciato il 12 dicembre 1969 a Milano con la bomba di Piazza Fontana. Qui, nel salone della Banca dell'Agricoltura, alle 16.37 del 12 dicembre, una carica è esplosa uccidendo 16 persone e ferendone 88. Il boato di Piazza Fontana scuote l'intera penisola, tanto più che echi, non solo simbolici di quell'esplosione, si verificano a Roma, dove una bomba scoppia nei sotterranei della Banca del Lavoro e un altro ordigno sconcia la tomba del milite ignoto. Un decennio che terminerà con il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro e della sua scorta. È lo stesso giorno in cui il governo Andreotti va in Parlamento per la fiducia alla sua linea di larga solidarietà democratica. Un decennio di stragi neofasciste, di bombe sui treni, di tentativi golpisti, di strategia della tensione, di servizi segreti, di poliziotti ammazzati. L'agente Marino è ucciso da una bomba a mano scagliata da un manifestante fascista. Di sequestri delle Brigate Rosse, di processi nei cosiddetti tribunali del popolo, dei primi scandali di corruzione nei partiti politici e di crisi economica. L'economia ad inizio degli anni 70 arranca, ma è il 14 febbraio del 1973 che segna una svolta decisiva. Gli Stati Uniti, pesantemente indebitati per la lunga e ormai persa guerra in Vietnam, decidono di svalutare il dollaro dell'11% e così scaricano al di fuori il loro debito. L'Italia subisce, assume la decisione di far fluttuare la lira e chiude i cambi. Alla riapertura la lira si ritrova svalutata del 10%. L'intento era di favorire così le esportazioni, in pratica automobili e gomma, ma il risultato è che aumentano i costi delle importazioni e l'Italia industrializzata del boom dei 60, ma anche l'Italia dove il 50% della popolazione vive ancora in campagna, si accorge che non produce beni di prima necessità, come carne, farina, zucchero e latte, che presto, molto presto, cominceranno a scarseggiare. A Reggio Calabria, ancora nel 73, ci sono gli ultimi strascichi di quella che subito passò alla storia come la rivolta di Reggio. Pagina nerissima. Iniziata il 13 luglio del 70. Motivo scatenante, banale, solo all'apparenza, la sottrazione di Reggio a capoluogo di regione a seguito dell'istituzione delle regioni. Essere per Reggio equivaleva a essere contro Roma, contro il governo, contro i suoi politici. E presto il malessere diventa rivolta, capeggiata da un esponente locale della destra missina, Ciccio Franco. Una rivolta violentissima, simbolo di un sud dimenticato, spremuto e offeso. Il 40% della popolazione è emigrato come mano d'opera per le fabbriche del nord e di chi rimaneva, il 10%, costretto a vivere nelle baracche. Il 30% era analfabeta e l'agricoltura umiliata dagli accordi europei che favorivano gli stati del nord Europa. Il 18 luglio scoppierà a Napoli la rivolta del pane. Il 24 luglio sarà la volta del decreto blocca prezzi per 21 beni di prima necessità. Risultato, lo zucchero scompare dagli scaffali e la Francia che ci fa la carità di mandarcene qualche tonnellata. A metà 73 l'inflazione supera il 10%, ma in poco più di un anno raggiungerà il 25%. Il 28 luglio rivolta nelle carceri a Roma e Milano. Il 28 agosto il colera a Napoli e a Bari e il nord blocca acquisti di pesce e verdura dal sud. In questo clima è chiaro che la sparizione di un ragazzo non dice nulla, anche perché il primo sospetto è che si tratti di uno scherzo. Ma a poco i giornali e la televisione racconteranno un'altra storia. Ci sono stati dei particolari, poco chiari, almeno inizialmente, nel rapimento di Polghetti. Indubbiamente ci possono esserci state anche delle perplessità. E d'altra parte abbiamo avuto elementi obiettivi di riscontro attraverso intercettazioni telefoniche debitamente autorizzate dal magistrato. Ci siamo convinti che Polghetti era stato vittima di un sequestro a scopo di estorsione e quindi ci abbiamo dato sotto in tutti i modi. Era Giuseppe Parlato, il questore di Roma nel 1973. La polizia dunque inizia le ricerche di questo giovane rampollo americano scomparso nell'estate del 1973 a Roma. Bentrovati su Mix 24. Stiamo raccontando una storia di cronaca degli anni 70. Piazza Navona è il luogo stabilmente frequentato da Paul Getty III, nipote del miliardario John Paul Getty I, fondatore della Getty Oil Company. Il nipote di questo magnate del petrolio, sull'onda dell'ideologia naturalistica spontaneistica del 68, disdegna il denaro e decide di vivere dei prodotti delle sue mani. E così, come tanti altri giovani della sua generazione, si trasferisce nella capitale italiana e vende oggetti costruiti da lui stesso, frivolezze, quadri. Un personaggio strano, tanto che quando scompare nel luglio del 1973, la polizia sospetta di lui, pensando: sarà uno scherzo che il giovane ha fatto al nonno, così, per bizzarria, oppure addirittura per tentare un ricatto, fingendo di essere rapito per ricevere soldi che certamente avrebbe diviso con i suoi amici. La storia di uno dei sequestri di persona che più appassionerà lettori non solo italiani. Il ragazzo si chiama Paul Getty III ed è nipote di Paul Getty I, l'uomo più ricco della terra, in pratica Paperon de Paperoni, in carne e ossa. Per essere ricchi come Paul Getty bisognerebbe fare un 13 al totocalcio tutte le settimane per 1000 anni. Egli potrebbe permettersi il lusso di pagare tutte le tasse degli ultimi 10 anni di tutti gli italiani o spendere 100 milioni al giorno per 30 anni e ciò nonostante avere sempre una bella sommetta da parte. I suoi averi personali sono stati valutati a 1000 miliardi di lire, mentre il patrimonio delle sue compagnie ammonta a più di 3000 miliardi. In realtà la vera consistenza dei suoi averi è addirittura incalcolabile. I suoi pozzi rendevano 80 litri di petrolio al giorno. John Paul Getty I da giovane era uno sgobbone e i compagni meravigliati della sua erudizione lo chiamavano il dizionario Getty. Studia nelle più prestigiose università americane e tutta la sua conoscenza, come la geologia, la conoscenza delle lingue, devono servirgli per acquistare denaro e potenza. Una volta un suo fiduciario gli scrive dall'Arabia Saudita sconsigliando di continuare le trivellazioni in una zona nella quale sembrava impossibile che ci fosse del petrolio. Ma Getty risponde: conosco quella zona, il petrolio deve esserci. Telegraficamente autorizza il suo rappresentante a sborsare 13 milioni di dollari per ottenere una concessione definitiva dall'emiro del Kuwait. Un anno dopo, trovato il petrolio, la concessione vale 10 volte di più. Le azioni della sua compagnia da 3 dollari l'una passano ad oltre 200 dollari. Dalle 5 mogli ha avuto 5 figli. Lavorano tutti con lui, ma non lo vedono quasi mai. Invece il miliardario ha un debole per i nipotini, che certo non hanno le stesse preoccupazioni finanziarie di cui lui soffriva da ragazzo. Dunque il giovane Getty, nipote dell'uomo più ricco del mondo, è stato rapito e i rapitori chiedono un mucchio di soldi. La notizia fa il giro del mondo. Questo rapimento, che potrebbe essere inteso anche come un'internazionalizzazione della criminalità italiana, in particolare il banditismo sardo, in realtà non fu così. I banditi non fecero altro che prendere un signore ricco che avevano individuato. Fu invece peggio ancora una internazionalizzazione della fama della criminalità italiana. Già era passata ormai quasi la fama degli italiani mafiosi, di improvviso apparvero gli italiani rapitori in tutto il mondo e fu un danno tremendo. Era Giordano Bruno Guerri. Nascono così le grandi battute di polizia e di carabinieri alla ricerca del sequestrato. Si cerca il nascondiglio. Immagini di luoghi impervi delle montagne brulle e rocciose entrano per la prima volta nelle case attraverso i telegiornali. Immagini che diventeranno familiari nella tragica sequela dei sequestri che segneranno gli anni 70. Di fronte a questi bollettini quotidiani, la meraviglia di tutti è scoprire come sia facile nascondere un uomo magari sdraiato in un buco sottoterra, magari sfiorato dai carabinieri in una perlustrazione eppure impossibile da trovare. Una piccola cavità nascosta da una roccia o da un cespuglio in una terra di pastori che sembra appartenere ad un altro mondo, ad un'altra Italia, eppure vicina a pochi chilometri da tutti. Così la reazione della mamma di Paul Getty III dopo il rapimento del figlio di 16 anni. Signora, è il primo contatto questo? Il primo contatto dopo... Una settimana circa? Dopo il contatto di giovedì. Dopo la telefonata di giovedì? Sì. Non può dirci di più, signora, su questo contatto? No, io non posso dire niente, salvo che noi tramite la stampa vogliamo dire che siamo pronti, la famiglia, a trattare. Disposta a trattare. Non ci può dire niente riguardo la cifra, le modalità di non questa posso trattativa dire che dovrà avvenire? No. Ecco. Su questo fatto non posso dire niente. Non può dire niente? No. Ecco. Lei ci diceva poco fa che ha avvertito la polizia, perché? Perché vorrei che la polizia in questo momento si fermano delle indagini, che si... Non interferire. Ecco. Sì. Di non interferire, cioè sì. In questo istante la famiglia di Paul prega sia la stampa che la polizia di non interferire, ecco. di lasciare campo libero a lei sola, che ha comunicato di essere sì. disposta sì. a trattare. Sì. Signora, che cosa ha provato a questo contatto? Io chiedo che non mi fanno delle domande di questo genere perché non è il momento. Rispondere. Ho capito, ma comunque sono reazioni, diciamo, certo, comprensibili normale di una madre. Per una madre. Comunque c'è, cioè, diciamo così, è bene che sia venuto questo contatto. Sì, segno. Certo. Ecco. È appunto che vorrei che la stampa gentilmente pubblica questa cosa, così verrà sicuramente un altro contatto e possiamo eventualmente trattare e avere il mio figlio a casa. La donna rigira l'enorme richiesta di riscatto al nonno ricco, ma il vecchio, oltre che ricco, dicono le male lingue, è anche avaro. A parte ciò, è un uomo che non ama far parlare di sé. Ha abitudini modeste, forse troppo modeste, che rasentano quasi in un miliardario, anzi nel miliardario per antonomasia, l'ostentazione. È goloso, mangia molto cioccolato e frutta secca, ma beve pochissimo, non fuma e trascura l'eleganza comprando abiti belli e fatti. Questa è un'intervista di Sandro Paternostro, filmata a Londra, a una donna inglese, un'avvocata, che alla morte del miliardario sarà una delle 11 donne che riceverà in eredità un generoso vitalizio. È vero che fosse avaro, vuoi stingi? He was careful. Era attento, ma amava essere generoso nei regali. Ma in affari e vita privata dava valore ai soldi. Non era avaro, ma dava valore ai soldi. Era molto timido. Come si comportava verso la gente? con arroganza, con gentilezza, con comprensione. Very shy. In ogni caso, nonno Ghetti fa sapere che non ha intenzione di pagare. Ha 14 nipoti lui. Se dovesse incominciare a pagare, ma c'è un ma. Ascoltiamo il sociologo Franco Ferrarotti. E le prime reazioni straordinarie del vecchio Ghetti, dice: non darò una lira, che sono le reazioni, non darò un quarter, un centesimo di dollaro per questo, che erano le reazioni tipiche di un anglosassone, cioè di un appartenente alla civiltà nordico europea o nordamericana, che non paga. Infatti là non esiste questo delitto, perché non si paga. Quando comincio a ricevere un pezzo di orecchio, questa è la straordinaria invenzione, vero? Questa macabra capacità proprio di giocare, di risvegliare nel vecchio Desabusé, nel vecchio indifferente, nel vecchio nordico protestantico anglosassone, che non ha più i legami di famiglia della civiltà mediterranea, risvegliare proprio in lui il senso dei doveri familiari, della solidarietà, per cui l'uomo paga. Dopo aver sfidato il drago, non gli darò niente, non mi interessa, lui pagherà fino all'ultimo centesimo. La storia dell'orecchio mozzato segnerà questa vicenda e proietterà un'ombra lunga su tutte le storie dei sequestri a venire. Indispettiti per non essere presi sul serio dall'atteggiamento del miliardario che non voleva pagare, i sequestratori fanno sapere che cominceranno a restituire il giovane Ghetti a pezzi. E così fu. Signor direttore, questa è la promessa che vi abbiamo fatto. Da oggi in avanti tutto quello che vi diciamo sarà fatto. Cioè questo è il primo orecchio di pollo. Fate gli accertamenti. Se è suo, se entro 10 giorni la famiglia pensa ancora che è una burla fatta da lui, gli arriva l'altro. In poche parole, arriverà tutto a pezzettini. Mandiamo al giornale questo orecchio, perché la famiglia di Paul Ghetti da 3 mesi ci prende in giro, dicendo che non già soldi per pagare. L'orecchio, sai, arrivò in redazione da noi in una busta, no? Lo sapevi questo? E la segretaria, con un urlo terribile, ha visto questa busta, arrivò l'orecchio. In effetti la segretaria apriva la posta, no? Arrivò questo orecchio, lei aprì la busta, sta cosa piena di sangue, fece un urlo, poverina, e va bene. Credo che non sia mai più accaduto che avessero inviato una... Ma questo fu proprio anche perché il giornale seguiva il fatto con un tale spiegamento di mezzi e con una tale costanza quotidiana che era considerato proprio, ecco, dovevano mandarlo al Messaggero, perché certamente la risonanza sarebbe stata, come poi accadde tristemente a suo tempo con le lettere del caso Moro, che la prima la mandarono al Messaggero, la prima lettera dalla prigionia. Erano il fotografo Giovanni Daco e il giornalista Giuseppe Columba. Bentrovati su Mix 24, siamo negli anni 70, siamo nell'autunno del 73 e un giovane americano, nipote del magnate Paul Ghetti, è stato rapito. Il nonno, avarissimo, in un primo momento non ha intenzione di pagare alcun riscatto, ma dopo che il pezzo di un orecchio mozzato giunge alla redazione del Messaggero, le cose cambiano. Dopo l'orecchio mozzato mandato al Messaggero, fu la volta di una lettera del ragazzo sequestrato alla madre e delle sue foto dopo l'amputazione dell'orecchio. In una lettera alla madre e ai familiari, trovata con le fotografie, lancia l'appello del giovane indifeso che si sente in pericolo. Se dopo questa lettera, scrive Paul, non sento qualcosa di buono, mi rassegnerò alla morte a soli 17 anni. Sono disperato, scrive ancora Paul, per favore, vi supplico, pagate dove vogliono i miei rapitori e sarò a casa sicuramente. Questa volta i sequestratori contattano un altro quotidiano romano, Il Tempo, e sembra proprio che si muovano come dei perfetti conoscitori dei mezzi di comunicazione. Angelo Frignani, capocronista del Tempo, ha ricevuto la telefonata questa notte. Com'era sta telefonata? Dunque era successo verso 1:30, mi è stata passata dal centralino del giornale, il quale mi ha detto: c'è un signore che deve dire qualcosa sul caso di Paul Ghetti. Era una voce piuttosto bassa, parlava con accento meridionale, mi sembra calabrese. Ha detto: vi interessano fotografie di Paul Ghetti senza l'orecchio? Io ho detto: sì, certo ci interessano. Cioè, però dovete assicurarmi che andrete nel posto che io vi dirò. bene, senz'altro. Mi ha spiegato, dovete prendere l'autostrada per Napoli, fermarvi sotto al cartello dove c'è scritto Valmontone, chilometri 7, lì troverete un barattolo con dentro una lettera di Polghetti, una lettera dei rapinatori e alcune fotografie del giovanotto. Sembra proprio che i sequestratori attraverso i giornali vogliano parlare direttamente all'opinione pubblica, terrorizzarla forse, ma sembra piuttosto che vogliano tirarla dalla propria parte. Ascoltiamo Felice Borsato, giornalista. Il messaggero, ecco, il ruolo del messaggero nella storia del giornalismo. È stato un giornale che ha sempre fatto della grande cronaca. Giornale delle servette, ben venga il giornale delle servette, se la famiglia Perrone, proprietari nel dopoguerra, vendevano un mare di copie, si estesero a macchia d'olio, cioè il messaggero viveva sulla cronaca, la precisione nella rubrica degli spettacoli, cioè se al brancaccio c'era tale film, state tranquilli che il film era quello, l'orario era quello, il prezzo era quello, ma soprattutto la grande cronaca, perché c'è questo, ecco, noi vecchi giornalisti diciamo buona nuova, nessuna nuova. I sequestratori sanno che la maggior parte dei lettori della cronaca è gente comune, cosciente di non essere bersaglio di un possibile sequestro. Vittime sono i ricchi, che vivono la loro ricchezza con ostentazione, mentre la gente comune, in quel 1973, comincia ad avere la sensazione che un certo modello di sviluppo è entrato in crisi. Dopo la crescita euforica degli anni 60, il popolo degli stipendi deve abituarsi a quella che sarà una lunga convivenza con l'inflazione a due cifre. Nelle società industriali avanzate, tecnicamente progredite, purtroppo a volte umanamente imbarbarite, in queste società la complessità della vita impone una grande attenzione nel dispendio delle proprie energie emotive. E nelle società, diciamo, che sono solo incipientemente industriali, che cominciano a industrializzarsi, come alcuni dei delitti di cronaca nera, come il caso Montesi in particolare, un caso proprio paradigmatico, allora la popolazione, le persone hanno ancora tutta la loro disponibilità di energia emotiva e la buttano su quel tema e partecipano vivamente e ne discutono al bar, caffè, eccetera. Così come agli inizi della televisione ci si riuniva intorno a questo piccolo apparecchio, vero, come se fosse il totem del villaggio, vero, tutti si aspettavano, e questo valeva per la città come per il villaggio, per il paese, cioè in una civiltà propriamente, in una società ormai completamente industrializzata, tecnicamente progredita, le occasioni di frizione, le occasioni di usura, le occasioni di dispendio di energia emotiva sono così numerose che noi abbiamo bisogno, diventiamo in qualche modo i ragionieri emotivi delle nostre passioni. Abbiamo una contabilità interiore e allora si comincia a dire: beh, a questo sequestro posso dare solo il 10%, a questo delitto il 20%. E a questo fatto, a questo scippo, anche se la vecchia è stata trascinata per la strada, anche se in fondo ha perso sangue, anche se è finita al policlinico, beh, posso dare solo lo 0,005%. È la vara contabilità interiore a cui ci costringe una società complessa, multidimensionale, dove l'imprevedibile ci aspetta quando prendiamo una metropolitana, un autobus, quando usciamo per la strada. Con la crisi economica, i partiti, attraverso l'IRI, pensano bene di entrare nell'economia acquisendo imprese sempre più grandi e improduttive. Diventano di Stato la chimica e i panettoni, automobili e pomodori in scatola, e per comprare lo Stato invade il mercato di emissioni massicce di obbligazioni. I rendimenti al 10 e al 15%. Le banche e le stesse imprese private invece di investire acquistano obbligazioni che rendono il 15% netto senza rischi d'impresa. Il 73 diventa così l'inizio del grande indebitamento pubblico. Il 22 novembre Moro, per poter varare i decreti di austerità, deve chiedere aiuto a Berlinguer, che preoccupato per le sorti della stessa democrazia glielo dà. Divieto di circolazione per le auto nei giorni festivi. Pesanti aumenti di benzina, ma l'anno successivo scoppierà lo scandalo Petroli con i segretari dei partiti di governo accusati di aver preso tangenti dai petrolieri per far aumentare ingiustificatamente il prezzo della benzina del 30%. E ancora stop alle 11 di sera per TV, cinema, ristoranti e bar. Alle 19 devono chiudere i negozi e le vetrine essere spente. questo il clima pesante di questo scorcio del 73. Questo il pubblico a cui si rivolgevano i sequestratori. Ma chi erano questi sequestratori? Da dove sbucavano? Sequestro, parola chiave per l'Italia degli anni 70. Si sequestrava per motivi politici, come facevano le Brigate Rosse. L'ingegner Macchiarini della Sit Siemens. Il sindacalista della Cisnal, Bruno Labate. Il dirigente della Fiat, Ettore Amerio. Le Brigate Rosse si definiscono avanguardie del partito armato. L'obiettivo è la distruzione del sistema democratico attraverso la conquista del proletariato industriale alla rivolta armata contro la linea del Partito Comunista. A Genova, il 18 aprile del 1974, nel pieno della campagna per il referendum, le Brigate Rosse compiono la prima operazione di forte rilievo emblematico col rapimento del giudice Mario Sossi. Ma nei primi 70 in Italia si sequestrava anche per estorsione, per ottenere denaro dalla famiglia del sequestrato. I sequestri per estorsione, a dire il vero, c'erano sempre stati in Italia. Un fenomeno antico, della Sardegna dei pastori della Barbagia, della mafia siciliana, dell'andrangheta calabrese. Fenomeni locali, chiusi, anzi, un po' nascosti. Ma all'inizio dei 70, e secondo la Commissione parlamentare antimafia, sembra che tutto avvenne in una riunione del 71-72, sardi, calabresi, siciliani decisero di andare fuori e presero a sequestrare lì dove c'erano più soldi. Non solo, ma agendo quasi contro il mondo ricco, come per una specie di distorta ridistribuzione della ricchezza. Roma e Milano furono le prime e subito piombarono in un incubo materializzatosi in quell'orecchio mozzato. Ha fatto impressione naturalmente il pezzo d'orecchio, che del resto è stato tagliato anche ad altre persone, e che del resto appartiene all'antica tradizione di segnare il bestiame con un taglio particolare, il vecchio diciamo sequestro di bestiame, l'abigeato, vero? La vecchia pratica, soprattutto sana. Comunque sia, l'orrore dell'orecchio mozzato ebbe i suoi effetti e Nonno Ghetti si convinse a pagare 1.700.000.000. Una cifra enorme per l'epoca, ma molti devono aver pensato, con tutti i miliardi che Paul Getty I, l'uomo più ricco del mondo, possiede, miliardo più, miliardo meno, la sua vita certo non cambia. La mia deve combattere con l'inflazione galoppante e i prezzi che aumentano più dello stipendio. Così i sequestratori, seppure brutali, giocavano su un elemento che suonava pressappoco così. È vero, siamo rozzi, ma in fondo rubiamo ai ricchi. E gente ricca, c'hai i soldi, li cacci fuori, li paghi. Questa è stata una delle ragioni per cui i sequestri in Italia hanno potuto durare così a lungo. È stata proprio, il giocare, la commistione fra solidarietà familiare, amore familiare, affetto familiare per i figli, eccetera, e valore del denaro, che dovrebbe essere contrapposto. Nel secondo caso, invece, per quanto riguarda la popolazione, se si tratta di persone straricche, di miliardari, e che gli fa? Gli diano qualche miliardo e se ne vada. E crediamo che questa mentalità fosse all'epoca più diffusa di quanto si possa pensare oggi. Ci sono dei giornalisti che intervistano Paul Getty III dopo il rilascio, durante il processo contro i sequestratori. Ma più che un'intervista sembra un interrogatorio di polizia. Tanto aggressivo risulta essere il giornalista nei confronti del giovane Getty, quasi colpevole di essere ricco. Getty ne rimane imbarazzato, fino a che si alza e se ne va infastidito. Paul Getty III. Potrebbe essere il nome di un imperatore, eh? Ecco, a proposito, lei come si considera? Un principe ereditario? Un playboy? O un povero ragazzo perseguitato dalla ricchezza? Gli risponda, Paul. Non sono nessuno di queste cose. Non sono nessuno di queste. Può alzare un po' la voce, per cortesia? Non sono nessuno di quelle persone che hai detto. E allora che cos'è, Paul Getty? Sì, sono io e basta. Senta, il suo nonno, questo nonno un po' terribile, lo vedi ogni tanto, lo incontra? Sì, sì. Qual è il rapporto con suo nonno? Amichevole. I suoi amici di Roma? Ci parli dei suoi amici di Roma, li trova, li incontra spesso, ogni tanto? Io non vado più a Roma. Non va più a Roma? Ogni tanto viene, abbiamo saputo. No, io non sono qui da tanto tempo, da un anno e mezzo almeno. Senta, Paul, Lei si muove così sotto buona scorta. È soltanto vittima della paura o esistono fondati motivi di pericolo per la sua vita? Meglio sempre prevedere queste cose. Essere prudenti, diciamo. Ecco, di quel giorno, cosa le è rimasto? Di quel momento? Niente. Che deve essere? Niente. Nella maniera più assoluta? Speriamo. E la sua vita familiare, poi? Tutto a posto. Ci dicono che è un po' tumultuosa. No. Non è vero? Mi sta deludendo, non dice nulla. Non ho niente da dire io. Anche quella volta, quando la liberarono, disse che non aveva nulla da dire. Non ho nulla da dire. Non sono un profeta. Ma è possibile che un uomo non abbia mai nulla da dire? Si arrabbia qualche volta. E si arrabbia un po' davanti al microfono, su. No, io devo andare adesso. Devi andare. E, un'ultima cosa, appunto. Mi perdoni, un'ultima cosa. Dopo questa deposizione riparte, va via? Subito. Va in America? Sì. Il ricordo dell'Italia, c'è un ricordo dell'Italia con lei? Con me? Ok. Ok. Pur dopo 5 mesi di segregazione? Okay. Toglie il microfono, proprio non vuol collaborare. Grazie, Colgate. Bentornati su Mix 24 con la storia del rapimento di Paul Getty III. L'opinione pubblica fu colpita non tanto dal fatto che un ragazzo sia stato rapito, quanto che il rapito fosse nipote di uno degli uomini più ricchi del mondo, e non solo, molti commentarono: «Ha tanti soldi che paghi», quasi che i suoi rapitori fossero dei Robin Hood. In realtà, la commissione d'inchiesta che ha studiato il problema dei rapimenti in Italia afferma che il rischio che correva realmente chi era stato rapito non era tanto che non venisse pagato il riscatto, ma dipendeva dalla sua condizione di sequestrato, cioè la condizione in cui si trovava il rapito. Il rapito, appunto, veniva chiuso o in una baracca nel migliore dei casi, a volte entrava un po' di luce, o in una grotta, o infilato in un buco, oppure all'interno di qualche edificio o in una cella di plastica larga 1,5 metri x 2. In più, di solito veniva immobilizzato, incappucciato, spesso gli venivano chiuse le orecchie con dei tamponi di cotone e restava lì l'intera giornata, salvo i rari momenti del pranzo, dove, a volte stranamente, gli veniva concesso un po' di conversazione o addirittura il regalo di una mela. Naturalmente l'ostaggio veniva minacciato pesantemente, gli puntavano la pistola alla tempia, gli dicevano «ora ti ammazzo» o fingevano di prepararsi ad ucciderlo e gli garantivano che sarebbe comunque morto perché tanto loro mai si sarebbero fatti catturare vivi. Poi sottilmente insinuavano «guarda, i tuoi parenti, i tuoi genitori, i tuoi figli non ti chiamano, non vogliono pagare, vogliono tenersi tutti i soldi» e naturalmente questo creava dei traumi psichici. Ma quello che però minacciava soprattutto la mente del sequestrato era il fatto di perdere il senso del tempo, che per l'essere umano è fondamentale. Alcuni di loro, una volta liberati e riacquisita la possibilità di vedere e di muoversi, non solo avevano il terrore del buio, ma a volte non riuscivano più neanche a camminare e si ritrovavano completamente sordi. Paul Getty III, dopo il pagamento del riscatto, era stato liberato la settimana prima del Natale 1973. Dopo 5 mesi di prigionia, era stato un camionista a incrociarlo, sporco, stanco e ferito, sulla Salerno-Reggio Calabria. In questo punto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, al casello di Lauria Sud, in territorio lucano, Paul Getty è stato ritrovato verso le 5 di stamane. Il suo rilascio è avvenuto nel rispetto di una regola ormai classica per gli autori di sequestri. È stato infatti abbandonato in una zona impervia del Lago Negrese, sempre in Basilicata. Ha camminato per tutta la notte sotto la pioggia. Indossava un maglione di lana bianca, un pantalone grigio e aveva ai piedi un paio di scarpe da tennis. Per primo lo ha visto un camionista di passaggio, il signor Antonio Tedesco, che così ci ha raccontato il suo incontro con il giovane che più volte aveva tentato di fermare altri automobilisti. Senta, lei è il camionista, il signor Antonio Tedesco, che ha incontrato Paul Getty stamattina, a che ora? Verso le 5 meno un quarto. Dove l'ha trovato? a Lauria Sud, all'imbocco dell'autostrada. In che condizioni era? Era tutto bagnato, tutto... Pioveva di rotto quello? Sì, sì, c'era nebbia. E che ha fatto? Ha chiamato, ha fermato il... No, ha fermato con i bracci... Il camion, ecco. Ecco, e mi sono fermato. E l'ho chiesto cosa voleva, no? Sì, e lei che le ha detto? Che... E ha detto, dice, devo telefonare a mia madre, devo telefonare a mia madre. Ma lei sapeva la storia di Paul Getty? L'avevo sentita parecchio tempo fa. Sì. Ma mo non ci pensavo nemmeno. E lui le ha detto, io sono Paul Getty? No, no. Non ha detto nulla? No, niente, dice, devo andare a un posto di polizia a telefonare a mia madre, solo questo. E lei non gli ha chiesto nulla? Io l'ho chiesto, ma perché non chiede a qualche altro? Che... Ci abbiamo chiesto già a parecchie persone, nessuno... E lei non si è incuriosito? Sì, ma avevo pure paura perché pensavo che era qualche mariolo, qualcosa. E poi è stato facendo. Ho sentito la radio dicendo che nella zona della Calabria dovevano liberare questo sequestrato così. E allora mi sono reso conto. Noi abbiamo tentato anche di assicurare alla giustizia i criminali nell'atto in cui ritiravano la somma del riscatto. Ma l'impresa era impossibile, era stato convenuto tra i familiari del Getty ed i criminali che il pagamento non avvenisse in un punto prestabilito, per cui noi avremmo potuto adottare le misure di appostamento più o meno simulate, bene o male, e cercare di sorprendere ed arrestare coloro che venivano a ritirare la somma. Le modalità del pagamento erano fatte in un modo molto, molto, molto astuto. Si trattava di presidiare oltre 500 km di autostrada e questo avrebbe mandato a monte qualsiasi nostra iniziativa. Abbiamo dovuto fare tutto un lavoro di pedinamento a scaglioni con macchine camuffate, tanto che siamo riusciti a non farci notare dai criminali, che sono stati notati bene sia dall'emissario della famiglia Polghetti che portava il denaro, sia da qualche funzionario isolato nostro, camuffato. Il giudice istruttore romano ha lungamente ispezionato una vecchia casa di campagna che due agenti americani del Narcotic Bureau presenti al sopralluogo hanno riconosciuto come quella in cui nell'aprile dello scorso anno si sono incontrati, camuffati da spacciatori, con Saverio Mammoliti, tuttora latitante ed anche lui implicato nel caso Getty. Dovevano trattare l'acquisto di 5 kg di cocaina e di un ingente quantitativo di eroina. Nel vecchio edificio i due poliziotti americani ed un sottufficiale della mobile romana erano stati accompagnati da Pasquale Vincenzo Mammoliti, quest'ultimo rinchiuso nel carcere di Lago Negro per il rapimento di Paul Getty. Nella casa di campagna il magistrato romano ha sequestrato diversi oggetti che potrebbero essere utili ai magistrati che si occupano dell'inchiesta sul caso Getty. Gli inquirenti ritengono di avere raccolto durante il sopralluogo a Castellace di Oppido Mamertina nuovi indizi che legano il rapimento del ragazzo al mondo dei trafficanti di stupefacenti e che consentirebbero anche di localizzare in questo vecchio edificio uno dei nascondigli in cui Paul Getty è stato tenuto prigioniero. Il Natale e il Capodanno, nell'Italia di questo 1973, saranno tetri, cupi. Due giorni dopo il rilascio del giovane Getty, il 17 dicembre 73, ci si mette addirittura un commando di terroristi arabi che all'aeroporto di Fiumicino attacca un aereo della Pan Am, lasciando a terra una trentina di vittime. L'ultima grande tragedia che ha per teatro l'Europa è quella di Fiumicino. Un gruppo di palestinesi riesce a raggiungere le piste dell'aeroporto romano. È il 17 dicembre 1973. Attaccano un Boeing della Pan American con bombe e armi leggere. 32 le vittime. Poi scappano su un aereo tedesco. Ad Atene uccidono un motorista italiano preso in ostaggio. 6 paesi arabi rifiutano ospitalità al comando. A Beirut e a Damasco le piste d'atterraggio vengono sbarrate con carri armati. La resistenza palestinese denuncia come criminali gli esecutori della strage e chiede di giudicarli. Dell'eventuale processo non si sa però nulla. In questi giorni di festa di fine 73, le case degli italiani sono fredde per la crisi petrolifera, le strade deserte e le implacabili statistiche registreranno un meno 50% nelle spese alimentari degli italiani, mentre le spese voluttuarie, i regali cioè, caleranno dell'80%. Paul Getty III, questo giovane romantico che, come tanti altri dei suoi tempi, aveva adottato con il 68 tutt'altri valori rispetto al nonno miliardario. Lippi d'oro era stato definito, ma anche il miliardario triste. Subito dopo il rapimento, infatti, Paul Getty III va via dall'Italia e vive una vita di alcol e trasgressioni. Solo un anno dopo sposa l'artista Gisela Martin Zacher, da cui l'anno dopo avrà un figlio, Paul Baltazar Getty, oggi attore a Hollywood. Nel 1981, a causa di un'overdose di droghe, finisce sulla sedia a rotelle, quasi cieco. E infine, nel 2011, muore a soli 54 anni. Il nonno Paul Getty I, il petroliere Paperon de Paperoni, dopo aver pagato il riscatto, aveva richiesto al nipote il rimborso di tutta la somma con il 4% di interessi. Della banda dei rapitori, gli unici due personaggi di rilievo sono Girolamo Piromalli, detto Momo, assolto per insufficienza di prove, e Saverio Mammoliti, condannato per traffico di stupefacenti e associazione a delinquere. E il grosso del riscatto sparisce nel nulla, probabilmente utilizzato per finanziare l'espansione dell'Ndrangheta nel traffico dell'eroina.